Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Sono passati 15 giorni e nel frattempo è scoppiata anche la questione dei bond irlandesi, ristrutturati all'insaputa dei risparmiatori italiani, ma restano ancora accesi e puntati i riflettori sul gruppo bancario franco-belga Dexia. Nonostante le cadute in borsa, lunedì per esempio il titolo ha iniziato la settimana con un calo di oltre il 16%, la salvezza per il gruppo dovrebbe essere certa. A prendere in mano la situazione sono stati infatti i governi di Francia, Belgio e in parte più piccola anche Lussemburgo, entrati in gioco quando le difficoltà strutturali e l'esposizione della banca ai titoli dei paesi periferici avevano ormai concretizzato l'ipotesi di un fallimento. Proprio questa mattina si è appreso che la banca e lo Stato belga hanno finalizzato l'accordo di cessione di Dexia Bank Belgique per 4 miliardi di euro. Salvataggio sì, dunque, ma l'operazione rappresenta il primo step di smantellamento della banca. Perché ci interessano le vicende di questo gruppo franco-belga? Perché hanno destato qualche preoccupazione per la controllata italiana Dexia Crediop, un marchio storico nato nel 1919, un ente di diritto pubblico fino al 92, impegnato soprattutto nella raccolta di risparmio nazionale, indirizzato nei prestiti ad enti pubblici e alla costruzione di opere pubbliche. Ciò che ha preoccupato gli italiani sono le tante obbligazioni emesse ed inserite, obbligazioni appunto tradizionali, ma anche altri prodotti obbligazionari inseriti in particolare nelle polizze vita distribuite da primari gruppi bancari, in particolar modo ce ne sono in circolazione distribuiti da Banca Intesa San Paolo e dalle Poste Italiane. Da Dexia Crediop, che tra l'altro vanta utili per 42 milioni di euro solo nei primi sei mesi dell'anno, rassicurano: rispetteremo tutti gli impegni con i nostri clienti. E per assicurare molti ascoltatori che ci hanno scritto, dopo aver sottoscritto anche di recente, perché l'ultima emissione è stata a giugno, per assicurare appunto l'ultima emissione obbligazionaria è stata a giugno, appunto per assicurare questi ascoltatori, qualche giorno fa avevamo invitato in trasmissione il direttore finanziario del gruppo Stefano Catalano. Siccome nella puntata erano rimaste aperte molte questioni sollecitate dai nostri ascoltatori, oggi lo abbiamo invitato di nuovo perché ci si chiede con insistenza come la ristrutturazione dell'istituto ai piani alti, e cioè in Belgio, possa avere se in minima parte o in parte più considerevole appunto qualche ripercussione sul volto italiano di Dexia. E allora Stefano Catalano, che miracolosamente è riuscito ad arrivare dall'aeroporto di Fiumicino nei suoi uffici appunto di Roma questa mattina nonostante il disastro meteorologico romano, lo salutiamo e lo ringraziamo per essere ritornato con noi. Stefano Catalano, appunto direttore finanziario di Dexia Crediop, buongiorno, bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno. Sta a bene, tutto a posto? Tutto a posto. È stato efficiente e diretto l'arrivo in efficiente, sì, è un po' lungo però, so che ci ha messo un po'. Allora, tutti quegli ascoltatori che appunto dicevano siamo riusciti ad accontentare nella puntata precedente possono richiamarci oggi sperando che ci sentano all'800 24 0024. Ci possono anche scrivere al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Vi ripercorreremo un po' la storia di questa banca, soprattutto per quello che riguarda ovviamente la filiale italiana, che peraltro è anche ufficialmente in vendita, lo dobbiamo ricordare. Questa era una condizione che era stata imposta dall'Unione Europea alla banca franco-belga nel 2008, quando già era stato effettuato un salvataggio pubblico, una ricapitalizzazione pubblica appunto per la banca, quando eravamo, come ricorderete bene, nell'apice della crisi finanziaria scoppiata con i mutui subprime. In quel frangente, per la verità, molti governi erano dovuti intervenire su molte banche. Ricordiamo l'intervento massiccio del governo olandese su ING, la Svizzera era intervenuta su UBS e quindi insomma non fu un caso isolato quello di Dexia. In ogni caso, ancora oggi ne riparliamo perché il gruppo non è riuscito a risolvere molti problemi, ma quello che ci interessa fare appunto è rassicurare i nostri ascoltatori sulla questione appunto italiana. Prima di entrare nel merito e nel vivo della trasmissione di oggi, un'occhiata invece all'andamento di borsa, che monitoriamo sempre molto attentamente perché insomma tendiamo di capire se ci sia o meno questo accordo fra Sarkozy e Angela Merkel sull'ampliamento della capacità del fondo salva stati. Qualche dettaglio in più dovrebbe arrivare nel Consiglio europeo del fine settimana. Ieri le borse hanno brindato al fatto che questa intesa ci sarebbe stata. Stamattina erano un po' meno ottimisti gli investitori relativamente a questa circostanza, perché lo sapete, poi la Germania è sempre maestra nel tirarsi indietro rispetto alle buone notizie. E le le borse appunto sulla scia di tutto questo stamattina sono ripartite male. Parigi adesso scende dello 0,9%, qualche piazza è arrivata a perdere oltre un punto e mezzo, adesso la situazione è un po' migliorata. Francoforte meno 0,57%, Londra meno 0,48%, Milano meno 0,67%. I migliori titoli di Piazza Affari: STM più 1,74%, Eni più 1,59%, Popolare di Milano più 0,90%, Pirelli più 0,88%, Fiat più 0,81%, mentre abbiamo in discesa Diasorin che perde il 5%. Questo gruppo è una discesa costante da molti giorni, da quando ha lanciato questo profit warning, questo allarme utili per il 2011. E quindi il mercato appunto abbandona il titolo. Prysmian perde il 4%, oggi sono in discesa un po' molti titoli legati alle materie prime. Il risparmio gestito, il bancario, Mediolanum meno 2,35%, Telecom meno 2%, meno 2% c'è anche su Azimut, su Tenaris, meno 1,5%. Su Unicredit, Generali e Banco Popolare. Euro su dollaro a 1,38,23, sta proseguendo la grande, la stagione delle trimestrali americane. Ieri sono stati comunicati i risultati di Apple, che non sono piaciuti al mercato. Il titolo nella sessione after hours ha perso il 6%, i risultati di American Express. Oggi all'esame del mercato arrivano anche altre società. Vedremo cosa succederà dunque nel pomeriggio, alcune rassegnano i dati prima dell'apertura di Wall Street, altre dopo, ma in ogni caso è un momento appunto sicuramente molto importante anche da questo punto di vista. E poi ieri sera abbiamo avuto il Beige Book della Federal Reserve, il rapporto periodico della Banca Centrale Americana, che ha detto ancora una volta l'economia statunitense è ancora in rallentamento. Anche se in settembre si sono manifestati dei timidissimi segnali di ripresa, però il mercato del lavoro ci preoccupa ancora molto. Direi che possiamo lasciare la borsa. Lo spread fra BTP e Bund stamattina era partito a 390 punti, adesso ha rallentato intorno ai 385. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo su richiesta di molti ascoltatori sul caso Dexia e soprattutto sullo stato di salute delle obbligazioni emesse dalla controllata italiana Dexia Credit Hop. Nelle scorse settimane, così come negli ultimi giorni, la banca Dexia è stata al centro delle attenzioni e dei timori di tutta Europa. Protagonista di vertiginose cadute in borsa e di previsioni tutt'altro che ottimiste. I problemi strutturali dell'istituto, dovuti all'eccessiva esposizione al debito dei paesi periferici, avevano infatti favorito la rapida diffusione di voci e paure in merito a un suo imminente default. Allarme che dovrebbe essere rientrato dopo la discesa in campo dei governi di Belgio, Francia e Lussemburgo, che per preservarne la stabilità finanziaria hanno deciso di intraprendere la via della nazionalizzazione. Lo spettro del fallimento dunque si allontana e la ristrutturazione del gruppo dovrebbe garantirne la salvezza. Il salvataggio pubblico però non ha cancellato le paure che questa notizia ha suscitato nel nostro paese. Dexia infatti ha anche un volto tutto italiano. La controllata Credit Hop, un istituto fondato nel 1919 ed entrato nel 1999 a far parte della famiglia franco-belga, che ne detiene il 70%. Specializzato nel finanziamento degli enti locali, vanta 200 dipendenti e un portafoglio di 18 miliardi di euro. Quel che più interessa i risparmiatori italiani, però, sono le obbligazioni. Si stima che ce ne siano 1,5 miliardi in circolazione, utilizzate per costruire molte polizze vita, collocate da gruppi importanti come Intesa San Paolo e Poste Vita. La paura per molte famiglie è di ritrovarsi nella situazione vissuta dai risparmiatori dopo i crack del 2008, ma da Dexia Credit Hop rassicurano, non sarà una nuova Lehman Brothers. E infatti questo accostamento, dottor Catalano, non era piaciuto affatto, anche quando noi l'avevamo fatto nella scorsa puntata, dottor Catalano, ma solo perché io avevo voluto fare questo paragone, perché avevamo scoperto che oltre ai detentori di obbligazioni Dexia Credit Hop in circolazione c'erano anche sottoscrittori di polizze vita che erano della tipologia appunto index linked, quindi indicizzate a prodotti finanziari. Avevamo fatto questo accostamento per spiegare appunto in che cosa consistesse il prodotto che avevano in mano. Detto questo, lei ha voluto appunto tornare a Salvadanaio e noi naturalmente abbiamo colto volentieri anche la sua disponibilità per rassicurare i nostri ascoltatori. Intanto riusciamo a fare un quadro, dottor Catalano, delle obbligazioni circolanti di Dexia Credit Hop? Qual è stato il movimento sul mercato obbligazionario, appunto l'accesso al mercato negli ultimi anni da parte della filiale italiana di questa banca franco-belga? E le posso chiedere anche innanzitutto quanto vi vincola la casa madre nella vostra operatività in Italia? Allora, se parliamo, buongiorno. Allora, buongiorno. Se parliamo dell'attività di raccolta, Dexia Credit Hop è uno dei principali emittenti obbligazionari italiani, probabilmente per lungo tempo è stato il principale emittente bancario collocato attraverso le principali reti bancarie italiane, quindi è un titolo decisamente diffuso. Attualmente lo stock in circolazione di obbligazioni di Dexacredit è circa 10 miliardi, ovviamente è un titolo ampiamente diffuso. Devo dire che l'aggettivazione e i termini che sono stati utilizzati spesso, anche un pochino nella rappresentazione, di rapportare la nostra situazione e anche quella del gruppo verso confronti stile Lehman Brothers non è del tutto corretto, e questo tende un pochino ad accendere gli animi e a creare un pochino di preoccupazioni. Io vorrei utilizzare un tono un pochino più pagato, utilizzare soprattutto fatti che entrano nella situazione attuale, che aiutino in qualche modo gli risparmiatori italiani a valutare la loro posizione. Mm-hmm. In primo luogo la ristrutturazione. È ovvio che il gruppo lancia una operazione di riduzione del proprio bilancio. Le società sono vendute o saranno vendute, quindi nel complesso il risultato dal punto di vista dei mercati finanziari è un bilancio più piccolo, minore fabbisogno di funding, e questo è sicuramente un fatto, se non vogliamo vederla dal punto di vista positivo, certamente un fatto che aiuta l'accesso al mercato della Dexia S.A. che rimane, Dexia Holding, che rimane come società Dexia Credit Local operante nel perimetro di Dexia, e quindi noi all'interno di quel perimetro. L'altra cosa che è stata spesso riportata, la grande esposizione verso titoli tossici o piuttosto titoli che hanno dei paesi periferici, chiamiamoli così, sì, di rimborso. Allora, Dexia aveva a livello del gruppo un'esposizione nei confronti della Grecia. 3 miliardi e mezzo di euro. Esatto. Portafoglio che è stato ampiamente svalutato, quindi nei conti tutto questo era stato considerato. Per ciò che riguarda Crediop, la situazione è un pochino differente. Dexia Crediop è probabilmente una delle poche banche che finanzia l'economia reale italiana, non ne faccio una questione di confronto con le altre. Di fatto il nostro perimetro operativo finanzia operazioni di sviluppo economico, operazioni di infrastrutture, quindi noi finanziamo gli enti locali quando questi fanno un rifacimento nel proprio comune, quindi un teatro piuttosto che un cimitero. Finanziamo con il project financing le stesse entità, quindi controlliamo l'avanzamento dei piani di finanziamento. Quindi dal punto di vista del nostro bilancio, dal punto di vista dell'attivo, praticamente un bilancio di una enorme sicurezza. E infatti, certo, alla luce di questi dati lei naturalmente dice piuttosto deprimente e frustrante sentirsi accostate sempre al caso Lehman Brothers. Detto questo, per molti sottoscrittori delle vostre obbligazioni, che in un frangente molto delicato qualche giorno fa, quando arrivavano i problemi appunto dal Belgio, hanno visto pesantemente svalutate le obbligazioni in portafoglio, è chiaro che poi le cose gliele possiamo spiegare appunto nella maniera più dettagliata possibile, vogliono avere appunto giustamente più chiarezza sulle motivazioni per cui questo accade. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi siamo ritornati sul caso degli obbligazionisti Dexia Crediop, molto diffusi in Italia, perché come sapete la casa madre di questa filiale italiana è in difficoltà, è stata nazionalizzata, anche se con una procedura che sta ancora andando avanti, non è stata definita completamente dai governi francese, belga e del Lussemburgo. E allora ci sono alcuni ascoltatori che, dopo aver sentito la prima parte della nostra trasmissione, stanno polemizzando. Un ascoltatore di Perugia, Paolo, ci diceva: vabbè, in pratica l'ospite che avete questa mattina, che è il direttore finanziario di Dexia Crediop, Stefano Catalano, vuole che gli si facciano i complimenti nonostante siano tecnicamente falliti. Allora, Paolo, il tema è che il fallimento, non mi sento di adottare questo termine, molte banche negli ultimi anni avevano cominciato appunto negli Stati Uniti, sono state pesantemente ricapitalizzate dal governo, perché naturalmente non si può lasciar fallire una banca, soprattutto quando ha anche un'attività commerciale molto intensa. Adesso un conto è la banca che lavora nell'attività di investimento di un certo tipo, chi invece ha un'attività proprio commerciale, quindi conti correnti e mutui, con piccoli risparmiatori, un fallimento ha una conseguenza decisamente diversa rispetto al resto. Questo è forse il motivo per cui all'epoca fu lasciata fallire Lehman Brothers. Io non so se il dottor Catalano vuole rispondere a questa provocazione piuttosto ardita nel nostro ascoltatore, ma secondo lei è da considerare tecnicamente fallita Dexia in Belgio, dottor Catalano, e poi ritorniamo sulle vicende italiane che hanno un altro filone. Assolutamente no, assolutamente no. La questione si gioca su due punti differenti, che sono due punti secondo me importanti che vanno tenuti presenti. La prima è la dotazione di capitale. Dexia Gruppo e Dexia, così come anche Dexia Credit Hope, hanno una dotazione patrimoniale più che ampia per svolgere la propria attività. C'è poi una nozione che oggi diventa sempre più importante, specialmente in alcuni paesi come l'Italia, la nozione di capacità di accedere al mercato della liquidità. Per quanto riguarda Dexia, non voglio entrare nel dettaglio, c'era sicuramente un problema di esposizione nei confronti di alcuni paesi periferici che rendevano più complesso questo, e quindi a un certo punto della storia della vita del gruppo Dexia è stato deciso di vendere alcune di queste società per garantire, quindi per evitare qualsiasi situazione più negativa, i risparmi dei clienti del gruppo Dexia. E ricordo che questa era la società FSA, se si riferisce a quella che era stata ceduta proprio a prezzi anche da liquidazione e si era ritrovata a gestire una quantità enorme di prestiti non restituiti da parte dei mutuari americani. Questa era una società appunto legata ai subprime. Questo è stato il primo problema grande che Dexia ha dovuto gestire nel 2008 e per il quale è stata necessaria la prima ricapitalizzazione da oltre 6 miliardi appunto di euro nell'autunno del 2008. Tornando ai giorni nostri invece sì. Per rispondere però un attimo alla diretti sulla provocazione del signore di Perugia, che non ricordo il nome, Paolo mi sembra. Sì. Allora, io non voglio i complimenti, però voglio parlare di fatti che devono in qualche modo essere considerati nel valutare e l'investimento e l'azione di Dexia Credit Hope sul mercato italiano. Numero uno, la dotazione patrimoniale, è una delle più elevate del settore in Italia. Questo non è un fatto secondario, questo ci ha consentito dal 2009 a oggi di ridurre il bilancio. Abbiamo venduto una grande quantità di attivi, riducendo il bilancio complessivamente, non sono dati segreti, sono rilevabili dai nostri bilanci, per oltre 20 miliardi di euro. Questo significa che abbiamo in qualche modo sacrificato i benefici dei nostri azionisti, ma dal punto di vista degli obbligazionisti abbiamo messo in linea una società che avrà meno necessità di andare sui mercati negli anni futuri. Quindi da un punto di vista lo voglio precisare, dottor Catalano, perché c'è chi ci contesta anche l'utilizzo della terminologia inglese. Quando lei prima diceva il fare funding, no? Quindi andare sul mercato per fare raccolte, questo è così. Questa è una delle modalità, facciamo funding o alleggerendo il nostro bilancio, quindi avendo meno bisogno di andare a chiedere finanziamento al di fuori, oppure andiamo a chiedere finanziamento ai risparmiatori. Sono due modalità per ridurre il nostro fabbisogno di liquidità. Quindi fare un'azione del genere la si può fare se si hanno delle dotazioni di capitale sufficienti, e noi le abbiamo. Una cosa è andare a richiedere ai risparmiatori più volte nel corso del tempo aumenti di capitale per far fronte alla situazione di perdita del portafoglio, una cosa è avere invece un capitale come lo abbiamo che ci consente questo margine di manovra, e noi questo l'abbiamo fatto. Dall'altra abbiamo continuato a fare politiche di raccolta che sono coerenti con la nostra modalità di impiego. Quindi tecnicamente fallito credo che non si possa dire. Noi siamo un debitore che si indebita ancora sul mercato, quindi siamo in una situazione di piena operatività. E poi comunque non ci dimentichiamo che questi salvataggi anche da parte dei governi avvengono chiedendo delle condizioni piuttosto stringenti, e questo è quello che sta accadendo, anche perché tra l'altro l'antitrust non ha neanche indicato se l'intervento del governo belga, di quello francese, di quello del Lussemburgo appunto saranno delle operazioni compatibili con le regole sugli aiuti di Stato. Insomma, sono operazioni che richiedono dei mesi, per cui per questo appunto seguiremo tutto ciò anche con grande attenzione. Si straparlo un po' stamattina, perché sto cercando di orientarmi tra i numerosi messaggi che arrivano e i tanti ascoltatori che invece sono pronti ad intervenire. Allora io direi di dar subito loro la parola, cominciando con Roberto di Ancona, che era un ascoltatore che forse ci aveva chiamato anche in occasione della scorsa trasmissione, non mi ricordo se eravamo riusciti a farlo intervenire. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, avevo chiamato anche l'altra volta, non ero potuto intervenire. Io volevo chiedere una cosa al dottor Catalano riguardo al titolo Dexia, il Credit Hope 2016. Vabbè, è sceso repentinamente, era arrivato a 55, sai, per un risparmiatore è una cosa abbastanza poco piacevole. Però a parte questo, poi è risalito, c'è stata la dichiarazione di salvataggi. Credo che sia sui 75 stamattina, perché ho un prospetto che ho stampato dal MOT, sì. Va bene, le dichiarazioni dei salvataggi poi nel fine settimana scorso e via discorrendo. Adesso io le volevo chiedere, poi nel fine settimana però ci sono stati degli articoli, mi sembra anche sul Sole, dove si diceva sì, degli aiuti di Stato che non sono proprio legittimi come lei adesso diceva. E poi diceva della parte Credioppo italiana che forse veniva venduta, non si sapeva chi. E questo secondo me genera un po' l'incertezza, un po' di qualcosa. Io adesso volevo chiedere qualcosa in merito a questo, ecco. A questa scadenza. Allora, tra l'altro io stamattina, appunto, stampandomi questo prospetto dal sito della Borsa Italiana, ho conteggiato 17 obbligazioni in circolazione da parte vostra, almeno sulle MOT, dottor Catalano, non so se mi conferma questa cifra, ma adesso è poco rilevante. Le scadenze più immediate sono alcune obbligazioni, appunto, che vanno pagate tra marzo, aprile, giugno dell'anno prossimo. Questo investitore invece ha un'obbligazione che ha una scadenza un po' più lunga, quella del 2016. I prezzi erano crollati nel momento più difficile di qualche giorno fa, per poi risalire adesso. Lui dice, insomma, io dubito che il direttore finanziario della società gli possa dire la vada a liquidare domani mattina, perché non ho certezza di quello che potrebbe accadere. Dottor Catalano, io che mi metto nelle sue mani. La ristrutturazione del gruppo Dexia, che lei ha descritto ai piani alti, non muta assolutamente le prospettive di rimborso del debito di Dexia Credit. Dexia Credit rimane obbligata nei confronti dei propri obbligazionisti, esattamente come prima. È vero che i prezzi delle obbligazioni hanno subito delle grandi oscillazioni, soprattutto a seguito delle notizie delle ristrutturazioni del gruppo Dexia, però non sottovaluterei il fatto che gran parte di quello che è successo sul mercato obbligazionario recentemente è anche frutto delle pressioni sul debito sovrano. E quindi su tutto il comparto obbligazionario vediamo. Sì, diciamo che certo che se uno avesse un portafoglio. Una pressione di questo tipo. Io ovviamente non posso dare un consiglio nel vendere piuttosto che nell'acquistare. Io dico che il risparmiatore che ha comprato questo 2016 deve in qualche modo valutare con attenzione i nostri dati di bilancio e poi prendere la sua decisione esattamente come l'ha presa al momento in cui ha deciso di acquistare. E certo, a prescindere dal titolo che sia, queste sono raccomandazioni universali che valgono sempre. Se avete la percezione che avete un portafoglio di investimento, questo a prescindere, appunto, ripeto, da questa obbligazione specifica, che in questo periodo sta andando sulle montagne russe, voi non tollerate questa volatilità, sarà il caso di fare una chiacchierata con il vostro consulente e ridare una riorganizzata al vostro portafoglio scegliendo dei prodotti di investimento più tranquilli. Non so quanti ce ne siano adesso disponibili sul mercato, non lo so, un conto di deposito, quello che volete, non voglio sponsorizzare una cosa piuttosto che un'altra, ci mancherebbe. È solamente, come dire, questo può essere l'occasione per fare un punto della situazione con il proprio promotore, il proprio consulente in banca, il direttore della banca alla quale ci si rivolge tradizionalmente, per dire: guarda, alla luce di quello che mi è accaduto su questo titolo, ho capito che io emotivamente certi movimenti, certe oscillazioni, certe situazioni non le sopporto, voglio qualcosa di più tranquillo. Pertanto questa credo che sia la considerazione da fare. Noi la situazione di Dexia ve la stiamo raccontando, le motivazioni per cui le quotazioni di questi titoli oscillano. Adesso dovete armarvi di santa pazienza, appunto, e prendere in esame la vostra situazione. Il caso Dexia Credit, a Salvadanaio sentiamo Gualtiero dalla provincia di Milano. Gualtiero, buongiorno. Pronto? Sì. Mi sente? La sentiamo benissimo. Sì, buongiorno. Senta, io ho comprato poco tempo fa delle obbligazioni di Dexia Credit Local. Sì. Ecco, volevo sapere qualche cosa in merito. Allora, aspetti lì, Gualtiero, perché magari il dottor Catalano vuole sapere qualcosa in più. Non sono quelle della Credit italiana. No. Senti, appunto, sono della Credit Local. Cadenza 2014. Appunto, Gualtiero, no, andavo da Catalano. Non sono quelle che sono della nostra filiale, ma sono emesse da Dexia Credit Local, che rimane nel gruppo Dexia e per la quale gli stati francese, belga e lussemburghese stanno elaborando e hanno già definito un piano di garanzie per 90 miliardi. Ovviamente questi 90 miliardi si riferiranno al rifinanziamento futuro, però definiscono sostanzialmente una società che ha un bilancio più piccolo, come dicevo prima, una minore fabbisogno di liquidità per il futuro e oltretutto hanno, qualora dovesse essere necessario, un meccanismo di garanzia che si sta elaborando in questi giorni che dovrebbe aiutare per il futuro l'accesso al mercato. Quindi non riguarda, al momento non si è ancora discusso e forse non se ne discuterà mai, così come questa parentesi si potrebbe aprire di un'eventuale ristrutturazione delle obbligazioni in circolazione. No, ecco, non è un argomento all'ordine del giorno, non è neanche preventivato. Dex Credit Local, così come Credit Hop, prevede di rimborsare esattamente i propri debiti come era previsto precedentemente. Quindi questo è lo stato di fatto, quindi Gualtiero al momento noi ci sentiamo di poterle dire, di poterle dire questo. Gualtiero, va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Sentiamo un po' invece Giovanni della provincia di Lucca, perché non ho capito bene il tipo di domanda che ci vuole fare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, sì. Allora io volevo fare velocemente due domande al dottor Catalano. Una è, siccome sul TLX alcune obbligazioni di Dexia Credit Hop hanno il market maker e sono rimaste con delle quotazioni molto alte, volevo sapere dal dottor Catalano come mai non è previsto un meccanismo di market maker anche sulle altre obbligazioni, ad esempio sul MOT, in modo tale che queste obbligazioni, essendoci appunto il market maker, non sarebbero scese così tanto. E poi la seconda domanda velocemente è, siccome ci sono soprattutto su alcuni forum delle indiscrezioni secondo cui se Dexia Credit Hop avesse problemi di finanziamento potrebbe rollare i suoi crediti che ha presso la pubblica amministrazione italiana verso la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, e volevo sapere se questo poteva confermarlo. Sentiamo fino a che punto possono spingersi le dichiarazioni al nostro microfono del dottor Catalano. Allora, intanto l'aspetto un po' tecnico, se ce lo può anche spiegare, le quotazioni delle vostre obbligazioni sul circuito alternativo obbligazionario, che è quello TLX. L'ascoltatore sostiene appunto che i prezzi sono sostenuti, posso dire, artificialmente dalla figura del market maker? No, non artificialmente, c'è un atteggiamento professionale, effettivamente c'è una differenza tra i due mercati. TLX ha un'azione professionale da parte di market maker che hanno un atteggiamento che previene alcuni eccessi d'animo che portano i risparmiatori a vendere sull'onda di notizie che vengono, e quindi fondamentalmente è rimasto un pochino più stabile. Viceversa, sul MOT, dove una figura di market maker così articolata non l'abbiamo individuata, abbiamo notato una maggiore volatilità, quindi molto più spesso il risparmiatore dà un ordine di vendita che non trova corrispondenza nella domanda di quel momento, e quindi tende a, se questi poi sono più di uno, quindi per capirci, dottor Catalano, se un risparmiatore, a meno che non l'abbia fatto in fase di collegamento, abbia comprato l'obbligazione Credit Hop sul mercato secondario in un altro momento, se sceglie il MOT può avere un tipo di quotazione? Non sceglie lui. Noi abbiamo scelto a questo punto di quotare sul MOT, riteniamo il MOT un mercato più trasparente. Abbiamo anche, allora com'è possibile che mi ricollegavo un pochino anche all'intervento che ha fatto prima lei sull'ansietà o meno dei risparmiatori. Il fatto che il MOT mostri un prezzo che in qualche momento non è esattamente rappresentativo del merito credito della banca, è comunque migliore rispetto ad investire direttamente su prodotti monetari, come lei ha indicato, dove in realtà il risparmiatore ha un finto aspetto di sicurezza, perché non vede oscillare il valore della banca. Quindi di fatto purtroppo il mark to market è qualcosa che non fa piacere vedere oscillare tutti i giorni, ma è qualcosa che dà il polso della possibilità di smobilizzo, ma anche della situazione ansiosa rispetto al credito che in quel momento è trattato. Quindi il mercato è sempre, dal mio modo di vedere, migliore del tra virgolette non mercato. L'ascoltatore aveva fatto anche una seconda domanda di queste indiscrezioni che vede comparire su alcuni forum di finanza, secondo i quali appunto voi potreste rollare. Non ho ben capito i prezzi. Le forme di raccolta, questo anche per dare un pochino più chiarezza sulla nostra modalità di accesso al funding, sono tipicamente istituzionali, tipicamente sul mercato dell'interbancario e anche in qualche misura anche nei confronti del rifinanziamento con la banca centrale. Quindi è un complesso di forme di rifinanziamento. Non ho ben capito però il punto esatto dell'ascoltatore. C'è ancora Giovanni da Lucca? Sì, ci sono. Ecco, ci puoi rispiegare un po' meglio la seconda domanda, Giovanni? Io di solito me ne scrivo al volo, ma ha parlato più velocemente di me lei prima e non ho fatto in tempo a scrivere tutto correttamente. Qual era il dubbio, l'indiscrezione appunto relativa? Nel senso che se appunto Credioppa avesse problema a finanziarsi sul mercato, cosa che la vedo per i prossimi anni difficile perché ha delle obbligazioni che sul MOT hanno dei rendimenti esagerati, a questo punto se potrebbe rollare, quindi dare in garanzia i crediti che ha verso la pubblica amministrazione italiana alla Banca Centrale Europea. E poi in riferimento alla domanda che ho fatto prima è appunto come mai non sono stati previsti sul MOT un sistema di market maker, perché sul MOT ci sono obbligazioni di altre società che hanno market maker e quindi tengono le quotazioni più alte perché appunto loro quotano correttamente, mentre un'obbligazione senza un market maker praticamente il pubblico retail va sul mercato, le vende e non trova nessun compratore in questo momento. Infatti, Giovanni, grazie. Dottor Catalano. Allora, negli altri casi il market maker è la società stessa che fa questa azione di emittente, che fa questa azione. Noi stiamo riflettendo sulla modalità di seguire questo mercato. Pensavamo che avesse una maggiore resistenza, ci siamo accorti, nostro malgrado, che c'è bisogno di dare una maggiore organizzazione al seguimento delle nostre obbligazioni sul mercato. L'altro aspetto l'aveva capito? L'altro aspetto l'ho capito, ma penso di averlo capito e nella mia risposta. Noi facciamo già accesso in qualche modo alla banca centrale, così come facciamo accesso al mercato dell'interbancario, così come facciamo accesso al mercato istituzionale a lungo termine per rifinanziare. Quindi è il coacervo dei mezzi di finanziamento che abbiamo per far fronte alla nostra posizione di liquidità. Non c'è una particolare attenzione su uno piuttosto che sull'altro, però. Allora, la nostra trasmissione sta già volgendo al termine, ci mancano 30 secondi. Dottor Catalano, gliene concedo 20 per dire, se vuole, delle cose che magari ce ne saranno mille che non siamo riusciti ad affrontare nel corso della trasmissione. Un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori: e non abbiamo per niente affrontato il tema delle polizze agganciate a questi prodotti, che comunque ce ne sono in circolazione, appunto, polizze vita distribuite da Banca Intesa, alcune anche dalle Poste, agganciate a titoli Dexia. Ma dottor Catalano, su questo punto? Allora, quello che posso dire, ripeto un'altra volta quello che ci ha detto, la ristrutturazione del gruppo Dexia non muta le prospettive di rimborso del debito di Credioppa, sia nella forma diretta di obbligazione, sia nella forma indiretta di sottostante di polizze assicurative, non muta. Quindi da questo punto di vista quello che posso notare come fatto consistente è la volatilità sui nostri percorsi obbligazionari. Su questo faremo delle riflessioni, interverremo in qualche maniera nel cercare di dare una maggiore stabilità al mercato, ma dal punto di vista generale quello che sostanzialmente mi sembra più importante, che agisce oltre a queste notizie sui nostri costi e obbligazioni, è la generale difficoltà del credito in Italia soprattutto. E infatti, dottor Catalano, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, noi ritorniamo domani, buona giornata a tutti.